Le 13. GR24, il sole 24 ore. Resterò fino al 2013, non darò l'Italia all'opposizione. Manovra in un fuori onda Tremonti da del cretino a Brunetta. Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sul rifinanziamento delle missioni all'estero. P4 si allarga l'inchiesta su Milanese perquisizioni a Roma. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci, in primo piano Silvio Berlusconi che torna ad attaccare l'opposizione. Non consegneremo l'Italia a Bersani e Di Pietro, nonostante i giornali, il fango e fantomatici salotti dei poteri forti, spiega il Premier. Intanto si è aperta la polemica fra i ministri Tremonti e Brunetta per una frase detta da Tremonti ieri alla conferenza stampa di presentazione della finanziaria. In diretta con noi Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Conferenza stampa sulla manovra, quella di ieri in via 20 settembre, che ha avuto degli strascichi certamente non previsti, come un fuori onda ripreso dalle telecamere mentre parla il ministro della funzione pubblica Brunetta. Si vede e si sente chiaramente il ministro Tremonti che, rivolgendosi a chi gli siede a fianco, il ragioniere generale dello Stato Canzio da una parte, il capo di gabinetto dell'economia Fortunato dall'altra, definisce Brunetta un cretino. Ma possiamo ascoltare il passaggio. Sono correttivi assolutamente sostenibili. Come al centro delle critiche del ministro dell'economia quanto sta dicendo Brunetta sull'impatto della manovra sulla pubblica amministrazione. Il caso ufficialmente si è chiuso comunque questa mattina in Consiglio dei Ministri, a riferirlo è lo stesso Brunetta che rivela: è venuto Giulio e mi ha abbracciato chiedendomi scusa, io però non ho ancora capito cosa sia successo. Infine il Presidente del Consiglio Berlusconi, intervenuto poco fa alla presentazione di un libro di Scilipoti, ha detto il governo andrà avanti fino al 2013 nonostante i poteri forti, avvieremo le riforme tenendo i conti sotto controllo, l'opposizione, ha concluso Berlusconi, è fuori dalle regole. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Migliette. A leggere i quotidiani stamattina sembrava parlassero di manovre diverse, numeri differenti a seconda dell'anno di riferimento e dei calcoli applicati. Una certa confusione regnava tra i 68 miliardi sparati in prima dalla stampa, i 40 del Sole 24 Ore richiamati anche dalla Repubblica e i 51 del Corriere. Certo, un qualche subuglio era stato generato da quell'ammanco di 15 miliardi necessari per il pareggio di bilancio nel 2014 è fatto notare dal Quirinale. Lo stesso Tremonti ha ammesso la mancanza, annunciando per colmare il buco la legge delega fisco assistenziale. Di fronte ai giornalisti il titolare di Via 20 Settembre era comunque stato chiaro, più o meno. Sul 2011 un'esigenza di correzione per 2 miliardi, sul 2012 6 miliardi. Sul 2013 18 miliardi più 2 che devono venire dalla delega assistenziale. Sul 2014 25 nel decreto legge a regime più 15 che devono venire dalla delega assistenziale. Questi dunque i numeri e secondo i tecnici fare la somma è un'operazione impropria, un po' come mettere assieme le mele e le patate. Meglio attenersi alla tabella pubblicata dal Ministero, 51 miliardi dalla manovra, poco meno di 18 dalla delega fiscale. Valeria De Rosa, Radio 24, il Sole 24 Ore. Prima di andare avanti con la pagina politica, una notizia che arriva dall'Olanda: una parte del tetto dello stadio di Enschede in Olanda appunto è crollata intrappolando alcune persone. Sul posto naturalmente stanno operando le squadre dei soccorsi, stanno cercando di liberare le persone sepolte, naturalmente vi terremo aggiornati. Torniamo invece alla politica: trovata l'intesa con la Lega, il governo procede sulla strada voluta dal PDL e dal Presidente della Repubblica. In Consiglio dei Ministri è stato infatti approvato il decreto per il rifinanziamento delle missioni militari italiane all'estero. Il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, parla di mantenimento degli impegni e di riduzione dei costi. È possibile, senza contravvenire agli impegni internazionali, ridurre i costi e la presenza in uomini e in soldi. Nella vicenda della Libia, noi abbiamo ritirato la nave Garibaldi, l'abbiamo sostituita con una nave più piccola, abbiamo studiato un sistema che fa fare agli aerei che partono dalle basi e non più dalla nave e alla nave più piccola sostanzialmente al 99% lo stesso compito che svolgeva la Garibaldi, con una riduzione di molti milioni. C'è un colpo al cerchio, riduzione dei costi, un altro colpo al cerchio, mantenimento degli impegni. due colpi al cerchio, nessun colpo alla botte. E il ministro Roberto Calderoli della Lega specifica il futuro della missione italiana in Libia. Le esigenze che ci sono a livello internazionale devono essere fatte convivere con le esigenze delle risorse economiche e dei conti pubblici del paese, e in questo senso ci si è rivolti. Nel testo non c'è un testo esclusivamente di natura economica e di finanziamento delle missioni. C'è scritto per legge che entro il 31 settembre 1000 devono rientrare, almeno 1000, e entro il 30 settembre, entro il 31 di dicembre almeno altri 1078. Ci spostiamo in Senato, dove il governo ha posto la fiducia sul DDL sviluppo. In diretta Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno dal Senato, dove sono ancora in corso le dichiarazioni di voto. Tra pochi minuti comincerà la prima chiama per il voto e la votazione finale dovrebbe arrivare intorno alle 14. Un esito scontato che sarà definitivo per un provvedimento che, lo ricordiamo, era stato già approvato dalla Camera con un altro voto di fiducia. Le novità vanno dal credito d'imposta per il lavoro al sud, ai paletti sugli espropri e le ipoteche sulla prima casa, nonché sulle ganasce fiscali, alle disposizioni sui precari della scuola, mentre non trova più spazio la famosa norma sul diritto di superficie ventennale sulle spiagge. Dall'opposizione netta bocciatura sia sul metodo, la scelta della fiducia, che sul merito. Per il PD questo provvedimento è solo l'ultima triste conferma di un governo ormai ampiamente sfiduciato dagli italiani, che cerca solo di sopravvivere, mentre per l'Italia dei Valori si tratta di un testo confuso, contraddittorio, che non aiuta la crescita. E da Palazzo Madama è tutto, a voi. Grazie ad Alessandra Schepisi. Parliamo invece di P4 perché si allarga l'inchiesta. Sentiamo. Dopo il caso Papa, a Montecitorio piomba un'altra richiesta. Una ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa nei confronti del deputato del PDL Marco Mario Milanese. Il provvedimento, emesso su richiesta del PM Vincenzo Piscitelli della sezione criminalità economica della Procura di Napoli, è stato trasmesso oggi alla Camera dei Deputati per l'autorizzazione all'arresto. Le accuse contestate sono corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio e associazione per delinquere. Il tutto a conclusione di una mattinata di perquisizioni in alcuni prestigiosi immobili nel cuore di Roma, di proprietà del Pio Sodalizio dei Piceni, ma che risultano presi in affitto dallo stesso Milanese, fino a pochi giorni fa il consigliere politico del ministro Tremonti, nonché ex ufficiale della Guardia di Finanza. La vicenda, quella dell'inchiesta in cui è coinvolto, tra gli altri, Paolo Viscione, in relazione alle attività della società assicurativa EIG. Secondo l'accusa, Milanese avrebbe ricevuto denaro, gioielli, auto di lusso e viaggi in cambio di notizie riservate per indagini della Guardia di Finanza. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Londra ora per lo scandalo intercettazioni che scuote la News Corp di Rupert Murdoch. L'indignazione monta e si vocifera dei primi arresti. Per il Times di Londra saranno 5 tra giornalisti e dirigenti di News of the World, il tabloid del gruppo Murdoch, finito nella bufera per aver spiato il cellulare di una ragazzina scomparsa nel 2002, che infine fu trovata uccisa. Vicenda che indigna, ma che sarebbe solo la punta dell'iceberg. L'inchiesta rivelerebbe infatti che quella di violare i cellulari di personaggi più o meno noti era diventata un'abitudine per il giornale. Tra gli spiati ci sarebbero anche i parenti delle vittime dell'attentato terroristico del 2005 a Londra e dei militari caduti in Iraq e Afghanistan. News Corp cerca di difendersi e di difendere Rebecca Brooks, direttore del tabloid al tempo delle intercettazioni ed attuale amministratore delegato dell'intero gruppo, ma non muove foglia per ora per Andy Coulson, all'epoca vice della Brooks e fino a gennaio portavoce del primo ministro David Cameron. Coulson, oltre a dare via libera alle intercettazioni, avrebbe autorizzato pagamenti alla polizia in cambio di informazioni. Il danno, oltre che d'immagine, è economico. Gli inserzionisti, uno dopo l'altro, disertano il tabloid e il governo pensa di rinviare all'autunno la decisione sulla possibilità di dare a News Corp il pieno controllo della televisione satellitare B-Sky B. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sentiamo come vanno questa mattina i mercati. Lo facciamo come al solito con la nostra Deborah Rosciani. Allora, Milano si conferma ancora la piazza peggiore d'Europa dopo lo scivolone di ieri. I mercati sono gli altri, sono positivi in attesa della decisione sui tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, decisione che arriverà esattamente fra 50 minuti alle 13:45. Fra 35 minuti circa. Per quello che riguarda la Bank of England, invece, poco fa si è appreso che ha confermato il tasso di riferimento allo 0,50%. Milano, dicevamo ieri, la piazza peggiore d'Europa, oggi fallisce il rimbalzo. Il FTSE MIB è ancora in ribasso ribasso dello 0,05%, sono ancora in ribasso gran parte dei titoli del settore bancario, ma è soprattutto Fondiaria la protagonista della seduta, con un calo anche oggi del 5,53% nel penultimo giorno di negoziazione dei diritti relativi all'aumento di capitale. Naturalmente a penalizzare le borse è ancora l'effetto della decisione di Moody's di abbassare il rating del Portogallo a livello di spazzatura. Peraltro non contenta, Moody's oggi ha abbassato i rating anche di 4 banche portoghesi. L'euro sul dollaro a 1,42,88 e per ora è tutto. Grazie Deborah Rosciani. Siamo invece alla cronaca. Un uomo con problemi mentali, scappato da una comunità terapeutica a Roma, ha ferito con un coltello prima un'infermiera e dopo essere sceso in strada due passanti. Poi è stato fermato dagli agenti della polizia. Abbracciare il Bosco delle Querce, questo è il nome dell'evento che avrà luogo domenica in occasione del 35esimo anniversario del disastro di Seveso. Giacomo Segantini ha intervistato Gemma Beretta, presidente di Lega Ambiente Seveso. Questo bosco è stato il risarcimento per la popolazione, è stato un simbolo ed è tutto un simbolo a livello nazionale, che sia stato pensato il suo sbancamento ci ha molto preoccupato e ora chiediamo fortemente che venga rivista questa decisione. La soluzione tecnica c'è stato confermato dai vertici di Pedemontana, chiediamo che ci sia la volontà tecnica politica di fermare un progetto che ormai si prevede prossimo. Quali sono i pericoli concreti? Il bosco è un bosco artificiale che sorge sopra una bonifica, ci sono due vasche dove furono collocati i materiali sia del reattore dell'ICMESA sia i resti delle case e gli oggetti contaminati da diossina. I rilievi ARPA del 2008 segnalano una presenza ancora molto alta di diossina, quindi il fatto che venga toccato il terreno può produrre sicuramente un rischio, a meno che non vengano prese le necessarie precauzioni, ma questo comporterebbe rifare la bonifica. Ed è tutto per questo GR24, il prossimo alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.